puntata numero 6. Torino, mercoledì 6 ottobre 1926. Ti prego, ti scongiuro, respira, respira, angelo mio. Portatemi ancora ghiaccio, presto, è stata bollita la siringa. Respira, amore della tua mamma, ti scongiuro, respira. Presto col ghiaccio, voi intanto, signora, sollevatelo dal lettino e mettetelo dritto. Ecco la siringa, dottore. Giacinta, vieni qua col ghiaccio. Ora guarisci. Ecco, sì, respira, amore mio. Ora guarisci. Sì, ecco, il dottore ti fa guarire, amore della tua mamma. Ti prego, respira, ti scongiuro, respira. Dottore, che succede? Dottore! Il grido della signora Diodata Foà squarciò la camera. Il medico strinse gli occhi, tenendo il piccolo Mauro ormai morto tra le braccia. Nella camera nessuno fiatò più. Diodata restò paralizzata, a guardare il suo bambino con gli occhi che non vedevano più nulla. Il respiro velocissimo, il cuore che sbatteva dentro la gabbia toracica per uscire dal petto. La governante Adelina l'abbracciava e le carezzava la testa mentre la giovane serva Giacinta singhiozzava in silenzio, con il volto coperto dalle esili mani di cera. Nella casa scese il più completo silenzio, soltanto piccoli rumori composti del medico che rimetteva gli strumenti nella borsa, suole sul pavimento, frusci di panni. Era mattina, ma era calata la notte. Lui, Roberto Foà, a quell'ora si trovava nel suo ufficio di agente di cambio a dettare lettere alla segretaria. Non sapeva che il suo adorato Mauro non si trovava più nel mondo e non si sarebbe mai più trovato, neanche a cercarlo in ogni angolo. Certo, quella mattina se ne era venuto via malvolentieri da casa, lasciando il suo piccino in quelle condizioni. La febbre era diventata troppo alta, respirava a fatica, era rosso in viso e piangeva in continuazione. Aveva deciso allora di mandare a richiamare il medico, che era stato lì fino a sera prima, affaccendato al suo capezzale, lasciandolo infine dormiente e un po' più tranquillo con un'iniezione. Quella mattina lui non ci voleva andare al lavoro, ma del resto cosa avrebbe potuto fargli a Mauro, restando in casa? C'era Diodata, c'erano Adelina e Giacinta. Sarebbe arrivato di nuovo il dottore. No, via, nulla da compicciare. L'unica era cercare di distrarsi col lavoro. Aveva baciato la fronte di Mauro, che era caldissima, fin dal primo mattino, e aveva fatto una carezza col dorso delle dita sulla guancia di Diodata, che lo aveva guardato con una luce angosciata negli occhi. Ma sì, non c'era da preoccuparsi così tanto. Un'altra iniezione a Mauro la febbre gli sarebbe passata. Sì, via. Agitarsi non serviva a nulla. Lo disse la moglie, lo ripeté a se stesso mentre si avviava al lavoro. Facile a dirsi, non ti agitare, non serve a nulla, il tuo bambino è in buone mani, stai tranquillo, gli passerà, guarirà di sicuro, che sarà mai un po' di febbre, sì, ma perché è sempre più alta? Sono giorni che continua e sale, che ne sai tu, non sei mica un dottore. Ci penserà il dottor Rigatti, è tanto bravo. E intanto sbagliava i conti. Scorreva il giornale, non capiva le notizie, leggeva più volte il bollettino azionario e i numeri gli ballavano negli occhi senza dirgli nulla, proprio a lui, che era un mago della finanza. Fece riscrivere due volte una lettera alla segretaria, perché quando la rileggeva ci trovava sempre qualche errore o delle cose che non gli pareva di aver mai nemmeno pensato. Poi la telefonata. La segretaria che apriva ritmicamente la bocca, ma lui non sentiva le parole. Lei parlava, sempre più agitata, le labbra che si muovevano veloci, e lui che sentiva solo il silenzio, un silenzio spaventoso e orribile. Lei lo guardava con gli occhi allarmati e lui non capiva, anzi aveva capito tutto. Ecco, sì, doveva correre a casa, presto, doveva correre più che poteva e come in un incubo raccolse giacca, cappello e ombrello e si mise a correre, a correre, a correre. E mentre correva bisbigliava velocissimo: «Non morire, figlio mio, non morire, figlio mio, non morire, figlio mio». In quella casa, la sua grande, luminosa, confortevole casa di via Baretti 45, era scesa la notte, e la notte rimase lì per molto tempo, per il suo piccolo Mauro, che non aveva ancora finito di vivere il suo 17° mese. Roberto Foà volle una sepoltura sobria, nello stile pulito e razionale della sua famiglia. Erano benestanti, di una ricchezza mai ostentata, civile, quasi sottotono. Al cimitero monumentale di Torino gli fu presa la celletta 48 del cellario numero 2. Quella mattina grigia del 7 ottobre, al funerale di Mauro vennero tante persone, molte famiglie dei tessili piemontesi, quelle che avevano affidato a Roberto Foà la gestione dei loro capitali, i colleghi di lavoro e i vecchi compagni di studio, gli amici di famiglia, quasi tutti i parenti di Diodata, i Segre, che vennero apposta dal Saluzzo. Arrivò anche Vittorio Valletta all'ultimo minuto, ci teneva a salutare il suo amico Roberto. C'era, insomma, mezza Torino borghese e industriale, silenziosa e composta dietro a quella piccola bara di legno chiaro, non verniciato. Roberto, che come sua moglie era ebreo, era anche di spirito profondamente laico e volle limitare il rito a una semplice benedizione. Nel momento in cui il suo bambino venne infilato dentro al buco rettangolare che lo avrebbe inghiottito per sempre, nella mente razionale e lucida di Roberto Foà si aggrovigliarono pensieri ed emozioni contorte, finché non ne uscì una sorta di vuoto, un desiderio semplice, solenne e banale, che tu continui a vivere in qualcosa di grande, bambino mio. Sì, ma che senso aveva? Tutti i genitori vogliono il meglio per i loro figli, ma che cos'è il meglio per un bambino morto? Vai a sapere. Pie speranze di un padre ferito, nulla di più. Thank you. Tre mesi dopo, Torino era in piena euforia natalizia. Luci, negozi addobbati, fiumi di persone che sfilavano sotto i portici illuminati. La vita si riprende sempre tutto e digerisce anche i morti. Ma per Foà non c'era nulla da festeggiare. Aveva faticosamente ripreso il suo corso. Ufficio, lavoro, pochissimi incontri, lavoro, ufficio, ufficio, casa. Ecco, la casa. Finché era in ufficio il da fare riusciva a anestetizzare tutto. D'altra parte lui era un uomo schivo, di poche parole, lavoratore serissimo e assiduo. Nessuno, dal barista alla segretaria, poteva riuscire a indovinare cosa bruciasse dentro al suo petto mentre salutava il commendator Gribaudo o mentre leggeva i bollettini di borsa. Ma poi tornava a casa e lì, all'angolo di via Baretti, la notte, che era scesa il 6 ottobre, lo attendeva. Era sempre là, annidata nella strada, nelle scale, nel corridoio, pronta a riaffiorare per un non nulla. Passare davanti alla cameretta di Mauro, lavarsi le mani con l'odore del sapone che rammentava il profumo di pulito del bimbo appena lavato, quel seggiolone lasciato nell'angolo di cucina che nessuno aveva avuto il coraggio di togliere. Non c'era scampo. La notte si annidava ovunque. A cena, puntuali come sempre alle 19, Roberto e Diodata parlavano di tutto. Lui dei problemi e delle soddisfazioni del lavoro, lei delle amiche, della cucina, poi si toccava l'attualità, la politica, dolorosa politica, e su questo tasto lui si infiammava sempre. Era molto diverso il Foà pubblico, schivo e riservato da quello domestico. «Sai l'ultima bella trovata del mascellone?» Leggevo stamani il giornale e non ci volevo credere. «Ha deciso di formare una polizia segreta per la repressione dell'antifascismo». Non gli sono bastate tutte le bastonate date dai suoi sgherri, mandare migliaia di persone in galera o al confino. No, vuole stanarli e punirli proprio tutti, quelli che non la pensano come lui. Si chiamerà Ovra. Pensa che bel nome, Ovra, come piovra, come manovra. Ma come sono fantasiosi e melodiosi i fascisti. Mi pare voglia dire qualcosa come organizzazione di vigilanza e repressione dell'antifascismo. L'ennesima sigla è ridicola, come il GUF. Questi sono scemi, scemi ma spietati, Diodata, viviamo in un momento di follia. Ti prego, Roberto, non ti far sentire in giro con questi discorsi, sii prudente. Io temo ogni giorno che le tue idee ti procurino qualche guaio. Sei tranquilla, sai che sono di poche parole. Sì, ma lo sanno tutti che sei antifascista e ogni giorno di questi tempi gli antifascisti vedi che fine fanno. Non devi temere, tesoro, ce l'hanno con i comunisti e i socialisti, non con i moderati. E sono vigliacchi e deferenti verso i finanziari benestanti come me. Vedessi come mi saluta tutto ossequioso quel cretino del federale ogni volta che ci incontriamo al caffè. E poi io non vado in giro a fare propaganda contro il regime. Lavoro e basta. Certo, a casa mia potrò pure sfogarmi quando leggo di queste porcherie, ti pare? Diodata annuiva e continuava a mangiare a occhi bassi. E su qualsiasi cosa vertesse poi la discussione, stai sicuro che un accenno a Mauro ci scappava, ogni volta. E puntualmente Diodata versava qualche lacrima. Lui invece reagiva quasi con rabbia, non verso Diodata, ma verso la morte che gli aveva rapito il suo angioletto. Sì, così lo aveva chiamato quando dentro dettò il necrologio alla stampa il 7 ottobre. È ritornato in cielo il piccolo angioletto Mauro. E rispetto a quell'ingiustizia incomprensibile, i soprusi dei fascisti gli sembravano chiari, logici, abusi comprensibili. Così, da quell'ingiustizia assurda cercava ogni volta un riscatto, una vendetta, una rivalsa, qualcosa che potesse tardivamente riparare quel danno, che potesse anche in piccolissima parte compensare quel torto, renderlo più accettabile. Bisognerebbe far qualcosa per Mauro, diceva ogni volta. Sì, bel proposito. Ma cosa? Sempre dove Là fuori, la Torino scintillante delle feste natalizie si era in quei giorni arricchita di un'ulteriore stella, un nuovo, piccolo ma delizioso teatro privato interamente progettato e decorato da Felice Casorati. Gazzetta del Popolo, 8 gennaio 1927, pagina 8. Il concerto nel teatro di Casa Gualino. Con l'intervento delle più autorevoli personalità del mondo artistico torinese, dell'Università del Giornalismo e della Finanza e alla presenza di un vasto elegantissimo stuolo di invitati, il grande ufficiale Riccardo Gualino aperse ieri sera con un riuscitissimo concerto la splendida stagione concertistica ospitata presso la sala costruita, con genialità di intenti e con felice e suggestiva realizzazione, nella palazzina di Via Gagliari da Felice Casorati, pittore, scultore e architetto. Il concerto, eseguito da un complesso di valentissimi artisti, fu dedicato tutto ad opere dei maggiori compositori del Settecento d'Italia, di Francia e di Germania: Alessandro Scarlatti, Durante, Campra, Rameau, Perdrieu, Couperin, Daquin, Mozart e Bach. Fra gli intervenuti notammo ingegner Cesare Albertini, avvocato Edoardo Agnelli, Sibilla Leramo, maestro Franco Alfano, maestro Eugenio Ballarmi, avvocato Vittorio Amedeo Barberis, avvocato Giovanni Barberis, maestro Alfredo Casella, Felice Casorati, architetto Carlo Charbonnet, eccetera, eccetera. Dopo il concerto, gli invitati, guidati dall'avvocato Gualino e dalla sua signora, che fecero con squisita cortesia gli onori di casa, visitarono alcune sale del palazzo. Sapevo che ti avrei trovato da queste parti, vestito da pinguino. Luigi, manca poco e mi fai prendere un accidente. Quando arrivi alle spalle, accertati perlomeno che abbia finito di bere tutto lo spumante. Per poco non mi affogo. Ti è piaciuto il concerto? Davvero bello. Musiche straordinarie, specialmente la sonata di Buonasera, ingegnere, che piacere, conosce il signor Torri? Ma chi non conosce il nostro gran bibliotecario? Però la prossima volta vogliamo vedere lei sul podio, maestro caro, ma vi lascio conversare in pace. A dopo, a dopo. Senti, Alberto, di là c'è Amelia che ti vuol salutare. L'ho lasciata a parlare con Cesarina, la padrona di casa. Ma che donna straordinaria quella! Sai che è una danzatrice eccezionale? Certo che lo so. Vi toccherà venire a vedere il prossimo spettacolo di danza. Non fare l'orso, dai. Lo sai che il commendator Gualino ci tiene. Oh, ti presento la signora Tina Agnelli. Signora, questo è il professore Alberto Gentili, il nostro miglior musicologo, compositore e direttore d'orchestra. Il professor Torri esagera sempre, incantato signora. Guardi che combinazione, proprio un minuto fa ho sentito parlare di voi dal maestro della corte, che è nell'altra sala, ci ha detto che lui è un vostro discepolo. In verità, signora, non è esatto, della corte ha fatto con me solo un piccolo corso di storia della musica e niente di più. Capisco. Mi scusino, ma adesso devo raggiungere mio marito che mi sta cercando. Ecco, io non capisco perché certe volte devi essere così acido. Che ti costava dire all'Agnelli che della corte è stato tuo alunno? Scusa, ma non sopporto che quello là vada a dire in giro che è stato mio allievo, quando l'avrò visto sì e no tre volte. E poi è un arrembante che non mi piace, punto. Se potesse farmi delle le scarpe all'università lo farebbe in 3 minuti. Magari è vero, ma mi pare che tu stia un po' esagerando. Piuttosto hai sentito che concerto? Che armonia questo Durante, quella suite di André Campra. Io lo sapevo, non lo sapevo mica che il francese Campra era di origini piemontesi. Quanti compositori straordinari abbiamo ancora da riscoprire, siamo davvero agli inizi. E quella cantata dello Scarlatti, non era un piccolo capolavoro? Pensare che ne ha scritte sembra diverse centinaia. Comunque noi, Luigi caro, abbiamo da occuparci del nostro tesoro adesso. Le feste natalizie sono finalmente finite, la tua biblioteca lunedì riaprirà e finalmente io finirò di valutare gli ultimi manoscritti. La stima è già quasi completa, ho calcolato finora circa 290.000 lire, forse un po' di più. La faccenda adesso sta così, noi comunichiamo a Monsignore Manuel la cifra, gli rendiamo i manoscritti, lui ci dice grazie signore, arrivederci, poi vende tutto a qualche mercante, si intasca 300.000 lire piovute dal cielo, visto che i manoscritti gli hanno regalati, e noi ci vediamo sparire un pezzo di storia della musica senza poter fare trascrizioni, edizioni, saggi, concerti, conferenza. Bella storia, ti è piaciuta? Si intitola La commedia del tempo perso. Alla parola 290.000 lire, la signora Barberis, che era lì vicino, si era girata, mentre sulle 300.000 lire si era voltato il professor Giacosa. Parla più piano, che qua ci sentono tutti. Tu ritirò per il braccio Gentili portandolo verso l'angolo meno frequentato della sala, dispensando sorrisoni e salutoni alla folla che fendevano. «E che pensi di fare allora?» riprese Torri. «I manoscritti appartengono ai Salesiani, così è!» «D'accordo, la proprietà delle carte è loro, ma qui si tratta di un patrimonio di inestimabile valore artistico. Secondo me questo fatto supera l'interesse privato e investe quello collettivo.» «Oddio, il mezzo ci sarebbe!» «E me lo dici adesso?» «Sì, ma come si fa? Buonasera, maestro carissimo!» esclamò Torri, che si era sentito pizzicare ai fianchi. «Alberto, ti presento il maestro Mario Cannello, che ha diretto un concerto di fine anno davvero strepitoso. Troppo buono, professore, troppo buono, ma vuol sapere il segreto? Basta solo un po' di ritmo e cercare di mandare a casa la gente prima del previsto. Due risatine, due strette di mano e sì sì, ci vediamo prestissimo, scomparve finalmente anche lui.» Torri riprese faticosamente il filo, tirandosi Gentili vicino e sussurrandogli. «Allora, ti dicevo, il modo ci sarebbe. E dimmelo, no? Bloccare quelle carte. Chiedere che il ministero ponga sopra di esse il vincolo nell'interesse nazionale. Certo, poi ti immagini la reazione di padre Emmanuel. Sarà una furia. Già non ha digerito che i manoscritti venissero qua a Torino, figurati se glieli blocchiamo. Ma certo bisogna fare così, non c'è altra strada.» «Oh, dottor Rovere, buonasera, mi saluti tanto la signora.» «D'accordo, tu la fai facile, però significa che lo Stato, se ha voluto esercitare il suo diritto di prelazione, si impegna poi ad acquisirli. E noi come Biblioteca Nazionale abbiamo a malapena i soldi per comprare le casacche agli inservienti. Dimmi dove le trovo, 300.000 lire.» «Soldi, soldi, sempre a parlare di soldi questi artisti!» sbucò da dietro il professor Lionello Venturi, passando in mezzo ai due col bicchiere in mano, strizzata d'occhi e via, sparito di nuovo nella bolgia del dopo concerto. Torri accennò un ciao ciao con manina e sorrisone dentato verso l'illustre storico dell'arte, poi serrò le mascelle, sbuffò e sollevò gli occhi al cielo. Si sarebbe mangiato la lingua. «Ecco, e poi dicevi a me di parlare più piano, qui ci sentono tutti, la faccenda è delicata. Basta così. Vieni lunedì mattina in biblioteca, decidiamo il da farsi. Signora Perrot, conosce il professor Gentili?» Ma con Dio e l'uomo fa paura. Lunedì mattina, Gentili passò per prima cosa nella saletta riservata, da cui i manoscritti non si erano più mossi, sparsi in terra, sui tavoli, sulle sedie, suddivisi in vari gruppi. Riguardò alcuni codici, scrisse qualche altro appunto e salì al secondo piano verso l'ufficio di Torri, tenendo in mano una lunga lista di tutta punteggiata di cifre. La situazione ormai era chiara. Per le scale lo affiancò il marchese Curlo, che aveva una gran curiosità di sapere notizie. Gentili lo invitò a entrare con lui da Torri. «Figuratevi, ma prego, non è il mio ruolo, ma che dite, non posso, ci aiuterete, sarei solo da intralcio, su via, ma no», finché finalmente si aprì la porta della direzione e Torri troncò la commedia, facendoli accomodare entrambi con un solo gesto della mano. «Ho esaminato meglio la faccenda del vincolo dal punto di vista legale», esortì Torri. «Si può fare». Curlo rifece la sua tipica boccuccia a O con gli occhi sgranati. Gentili lo anticipò. «Vedete, Marchese, per non lasciar disperdere la famosa collezione, io e il direttore avevamo pensato di vincolarla». «Sì, ma se mi consentono, vedo sorgere due ordini di problemi. Il primo è di carattere, diciamo, più morale e personale. Padre Emanuel sarà tutt'altro che contento e prevede uno scontro con il collegio salesiano. Il secondo è che una volta vincolati i codici vanno acquistati e che possiede una somma così grande. Dite benissimo, Faustino, sono problemi che già col maestro Gentile avevamo evocato. Che ne dici, Alberto?» Torri non aveva la più pallida idea di come uscire da quella situazione e rimbalzò il problema all'amico. «Io dico che dobbiamo raggiungere un unico obiettivo. Quei manoscritti devono diventare patrimonio pubblico». I due bibliotecari annuirono convintamente. «Dopodiché il primo problema elencato dal marchese non mi preoccupa affatto. I salesiani avranno i loro soldi in qualche modo, in un modo o nell'altro. Tanto questa è la sola cosa che gli preme. Piuttosto bisogna capire dove possiamo trovarli questi soldi. Ma la cosa più naturale mi sembra quella di chiederli al ministero. Dico bene?» «Si vede, Alberto caro, che per fortuna non lavori in una biblioteca. Anzitutto, il ministero non pagherà mai una somma simile. Lesinano anche le matite, figurati. In secondo luogo, ho paura che se stuzzichiamo il can che dorme, quelli sono capaci di assegnare la collezione a un'altra biblioteca, magari a Roma, con la scusa di esaminarla meglio, oppure perché è sede di maggior prestigio. È un rischio che non possiamo correre». «Ma tu dovrai pur relazionarli sulla scoperta di questa collezione e sulla necessità di acquisirla alla Biblioteca Nazionale, se chiederai il vincolo». «Certo, questo è certo. Ma sono comunque sicuro che non tireranno fuori una lira. Poi ti ripeto, ho paura del cambio di destinazione. Bisogna essere molto prudenti nelle comunicazioni». «Facciamo così», replicò Gentili. «Tu intanto avvisi il ministero dell'esistenza di questa collezione e ne chiedi il vincolo, senza entrare troppo nel dettaglio. E noi ci mettiamo fin da oggi a cercare un mecenate, un privato che voglia acquistare la collezione col preciso scopo di donarla alla Biblioteca Nazionale di Torino. Dico Torino, vada bene, non Roma. Che dite?» E si girò fiducioso anche verso Curlo. Torri sembrò convinto, Curlo un po' meno. Lo preoccupava soprattutto Monsignor Emanuel e difatti la prima cosa che disse fu: «D'accordo, però bisogna avvertire al più presto Padre Emanuel. Temo una brutta reazione da parte dei salesiani». «Per questo non c'è persona più capace di voi, caro Marchese. Voi avete tenuto finora le relazioni con Emanuel e godete di larga stima presso i salesiani. Invece di scrivergli, sarebbe meglio che andaste al più presto a Borgo San Martino per spiegare la situazione a voce, come solo voi sapete fare». E con questo Torri gli scaricò in un baleno la patata bollente in mano. Curlo, che avrebbe preferito farsi rincorrere sul lungo Po da una muta di cani feroci, inclinò leggermente il capo sulla sinistra, poi sulla destra, sempre guardando fisso il filo della lampada, dopodiché rispose con un asciutto signorile: «Farò del mio meglio». Sì, lì per lì era sembrata l'idea più geniale e semplice del mondo, quel «ci mettiamo a cercare un mecenate privato». Ma poi come si sarebbe dovuto fare? Come si fa a chiedere a qualcuno una cifra enorme come 300.000 lire? 300.000 lire! Ci si compra un grande appartamento e in più c'entra anche una bella automobile di quelle moderne e scintillanti che la Fiat sforna non lontano da lì, nel gigantesco stabilimento del Lingotto che proprio un anno prima si era ancora ampliato fino a diventare un mostro di 350.000 metri quadri. ecco, come si fa ad andare da qualcuno e chiedergli di regalarti un grande appartamento più una bella automobile? Magari la stupenda Fiat 509, così elegante, moderna, ambita da tutti i benestanti che vogliono provare l'ebbrezza di sfrecciare addirittura 78 km all'ora. Se l'acquisti nella versione base, la berlina, bastano già 16.000 lire. Ma se la richiedi in versione torpedo, cabriolet o coupé o addirittura spider, allora il prezzo può arrivare fino a 25.000 lire. Certo però ne vale la pena. Anche il vate di Pescara, in quel suo innestare continuamente aguzzi spezzoni di modernità nel corpo molle della sua ampollosa prosa classica, ne è rimasto folgorato. Per lui la 509 è una femmina. Questa automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la velocità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza, ma per contro della donna ha la disinvolta levità nel superare ogni scabrezza. Era stato facile a dirsi. Prova però ad andare da qualcuno a chiedergli di regalarti una dozzina di quelle femmine veloci e disinvolte per poi vedere che faccia fa. Curlo intanto se n'era andato, testa bassa e occhi che guardavano di lato, rimuginando e bisbigliando le parole con cui avrebbe dovuto cercare d'ammansire i cani feroci. Gentile e Torri erano rimasti insieme a cercare di farsi venire l'idea geniale, il mecenate delle 300.000 lire. Perché non chiedere all'ingegner Gualino? Grande idea! E padrone della Snia Viscosa, dell'Unica e dell'Unione Italiana Cementi, vicepresidente della Fiat. Di soldi ne ha palate. Soprattutto è un innamorato dell'arte. Basti guardare cosa ha fatto l'altra sera con l'inaugurazione del suo bellissimo teatro privato. E 2 anni fa, quando ha creato il Teatro di Torino tutto a sospese, senza parlare della sua inestimabile collezione di opere d'arte, ne sa qualcosa il professor Venturi, che gli fa da consulente e da catalogatore. Quello compra in continuazione dipinti, statue, oggetti di ogni tipo. Perché non dovrebbe comprare la collezione di manoscritti del Collegio San Carlo? Ragionando a alta voce, i due si erano entusiasmati. Erano convinti di aver già trovato l'uomo. Ma sì, oltretutto la sera scorsa era stato così amabile con Gentili. Non c'è dubbio. Era Gentili quello che avrebbe dovuto tentare l'assalto. Torri aveva molto meno confidenza. E poi, con la sua carica istituzionale, non gli sembrava il caso di entrare subito in gioco. Sarebbe subentrato più tardi e trattative iniziate. Sì, però ragionando venne anche fuori che il grande ufficiale commendator Gualino aveva appena iniziato a costruire la sua grande villa museo sulla collina di San Vito e stava investendoci un'enorme quantità di soldi. Forse non era proprio questo il momento migliore per chiedergliene altri. E poi, a guardare bene, tutto il mecenatismo di Gualino si indirizzava verso oggetti molto concreti. Nuovi teatri, la villa museo, collezioni d'arte, insomma, tutta roba da vedere, da toccare, da stare lì alla vista del pubblico. Figurati se poteva interessargli un mucchio di carte da rinchiudere in una biblioteca. Più ne parlavano e più i dubbi si mangiavano all'entusiasmo, fino a trasformarsi in una delusione. Fecero le pulce a Gualino per altri 10 minuti e poi risolsero che sì, d'accordo, valeva la pena fare un tentativo, ma senza grandi speranze. Contattare la famiglia Agnelli? Ma che, l'idea fu scartata quasi subito, nessuna speranza di mecenatismo di quel genere. Dopo qualche altro nome, Torri e Gentili si resero conto che i grandi industriali metallurgici, chimici e meccanici non erano adatti a quel tipo di operazione. Perché non provare coi tessili? Gentili conosceva diversi personaggi in quel mondo, tutti ebrei come lui. Ecco il nome. Sciocco non averci pensato prima. Isaia Levi. Aveva da poco comprato l'Unione Cooperativa Abbigliamento Spera e col suo talento per gli affari ne aveva fatte balzare il capitale sociale da 7 a 38 milioni. Mica male. Non erano certo i soldi che mancavano, bisogna piuttosto capire se Levi aveva la sensibilità per apprezzare l'importanza di un prodotto artistico così particolare come dei manoscritti musicali. Notizia di suoi gesti munifici o mecenateschi a memoria di Gentili non se ne aveva. Certo, non era un uomo di cultura come Gualino, che da giovane pubblicava poesie in stile carducciano. Gli studi di Levi erano stati tecnici e poi si era buttato a capofitto nella gestione della ditta paterna. Però la moglie, Nella Cohen, gli aveva portato in dote un po' di cultura. Lei era la figlia di Achille, professore di storia dell'Università di Firenze, e sua sorella Luisa si era sposata col famoso matematico Federico Enriquez. D'accordo, erano speculazioni che lasciano il tempo che trovavano, ma valeva la pena di tentare, facendo magari leva sul tessuto delle amicizie comuni alla comunità israelitica di Torino. Presero in considerazione altre ipotesi, fecero una piccola lista di nomi e stabilirono delle priorità d'azione. Ma di chiunque si parlasse, rimaneva a galleggiare lo stesso dubbio. perché mai un ricco privato dovrebbe regalare una così grossa somma allo Stato? D'accordo, c'era di mezzo l'alto interesse culturale, storico, il salvataggio di una collezione musicale straordinaria, ma un conto è fare da mecenate donando un quadro famoso o una statua, un altro donando delle carte. Sembrava tutto poco attraente per chi non avesse gli strumenti culturali per apprezzare la grandezza di quelle opere mute. Chiunque sa rimanere affascinato da una bella scultura o da un affresco, ma pochissimi sanno riconoscere la bellezza che sta dietro alla musica scritta. Ci voleva qualcuno che non soltanto ricco, non soltanto filantropo, ma che fosse mosso da un ulteriore interesse. Ecco, ci voleva il motivo in più. Ma quale poteva essere? Boh. Per il momento i due erano fusi, avevano parlato per quasi 3 ore e non avevano trovato la soluzione che fino a poco gli sembrava così a portata di mano. Si salutarono, promettendo di sentirsi costantemente per qualsiasi sviluppo o nuova idea. Erano entrambi impazienti, vagamente disillusi e agitati. Avevano fretta di individuare il loro Deus ex machina, ma al tempo stesso temevano di non trovarlo. Sapevano che tutte le loro fatiche si sarebbero potute polverizzare in un istante se il ministero non avesse consentito al vincolo, o se padre Emmanuel avesse reagito male riprendendosi tutto, o chissà quali dei 100 altri possibili impicci che gli si affollavano in mente. Mi Sul cuore, sull'empio, sull'empio.